vento che mi piace tanto e che fa duro duro duro duro duro duro. Come si chiama non ne so neppure il nome, so che fa duro duro duro duro duro duro. Il certo è che se fa scordare di tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrarre afflitto stai. Canta quel motivetto che mi piace intanto e che fa duro duro duro duro duro duro duro. Thank you.